Per capire, sentito? Allora, tappino antireflusso e rubinetti. Sì, dal carrello che c'è medicazione, svuotalo proprio tutto e passacelo. Poi lo rimpiazziamo dopo, se lo vuoi fare adesso, come vuoi. Ve ne passo con le vaschette? In una bustina, almeno la vaschetta la salviamo. Ok, dammi il tempo di preparare e ve li lancio. Thanks a lot, passo. Mari, ci guardi la terapia della 13 usai e ci lanci l'Alchon, per favore, anche, grazie. Ditemi dove trovo i rubinetti. Sempre in quel cassettino, non ce n'è qualcuno? No, da dove ho preso i tappini antireflusso ci sono solo tappini gialli. Allora, i rubinetti forse li trovi a fianco al computer, in quel mobile scorrevole in alto. Ok, visti, ce n'è qualcuno, adesso controllo. Caro l'Alchon, da 0,25. Sì, grazie, dammelo, che la FIFA scompensata lo vuole adesso. Allora, rubinetti, solo due. Ok, va bene, meglio di niente. Ascoltami, un'altra cosa, mi puoi mandare anche dentro quel Septamani gel, per cortesia, che l'abbiamo finito sul carrello. Qua, prendine anche uno dalla nostra medicazione sul bancone, ce ne sono due, mi dai anche quello dove ce n'è di meno. Ok, ascolta, l'Alchon è questo da... se c'è scritto... Sì, Alchon, 250 microgrammi. Tipo. E noi stiamo uscendo, Luisa, mi senti? Se non serve altro, noi stiamo uscendo. Ho portato la terapia del 17. Ok, dimmi se c'è qualcosa di urgente da attaccare, se no se lo attaccano i colleghi dopo. Ora, mi ha messo un inizio a 4.000, credo che sia ore 20. E se no glielo faccio. E poi cos'altro? Poi, per le 22 ha un Seroquel e un TAV. Ascolta, allora, fai una cosa, Maria Luisa, preparami tutte e tre le cose che non c'ho neanche in Ixa, per cortesia, e me le passi, ok? Ascolta, c'ha anche una R e un Roche fino alle 22. No, no, ascolta a me, passami la terapia orale. Mi passi l'eparina. Passo solo l'eparina, allora? Dica, Maria Luisa. Ho chiesto se ti passo solo l'eparina. Anche la terapia orale. Scusate, mi dite per chi sono queste tre camomille che mi avete dato? Ma le trovo il sero, quelle che altro non le trovo. Maria Luisa, ci sei? Maria Luisa? Te lo sto passando. Ok. Dio, c'è una busta per letta, come fate per portargliele? 8 Manunta. Sono nella sua stanza, se guardate. Perdoni, 15 litri al minuto, 15! Verde, 15 litri al minuto. 15. Di Antonietta? Dimmi, giù. Ti manca tanto, vuoi che entri? No, assolutamente, giù. No, è che la signora Zocchedo si fa uffu. La signora Manunta si sta lamentando che non sente l'ossigeno. Da quando gli ho messo la Venturi. Io l'ho messa a 15, questa verde, e sta saturando 92. Sì, è a 15, la verde è a 15, ho anche controllato, è a 15. Ma sta saturando 92, lei dice che si sta lamentando che non le sta arrivando ossigeno, ma è sempre possibile. Che è ancora rimasta qua. Allora, Giusy? Sì. Ora, mi confermano che la signora Secchi può mangiare, perché io devo darle la terapia e voglio darle qualcosa da mangiare. Mi dite cosa può mangiare e... sta saturando 97, adesso è seduta nel letto. Chiedo. Allora, Maria Eugenia. Dimmi, Giusy. Il problema è che ha solo 5 minuti di tempo per poter mangiare. Quindi può mangiare qualsiasi cosa, ma è nell'arco di 5 minuti. Va tagliata prima, diglielo alle 8 di tagliargliela prima in modo che lei in 5 minuti mangi, perché altrimenti desatura subito. Cosa, giù, voglio sapere una cosa, i medici a che ora entrano? Perché preferirei che ci fossero loro quando io la stacco dal casco. Non lo so. anche tu il medico? Sì, sì, per chiedere a che ora entrano loro, perché casomai aspetto un attimo. Non so se poi riesco, cioè, se non c'è qualcuno di loro, così io non lo sappiamo se riesco poi a ripiazzarlo, e poi non c'è, cioè, loro si devono cambiare di tutta fretta. No, hai ragione, qualche tempo restano lì. Sì, dai, aspetto sino a che entrano loro. Te li metto gli stick così inizi a segnarti quelli. Stefano? Sì, sto venendo. Stai venendo tu, fai venire qualcuno per svestirla però. Fatto che non c'è nessuno. Lo dovrò svestire e per rientrare dentro e cambiarmi. Sì, ok, dai, vieni, falla uscire per favore. Prego. Quello che c'è nell'ingresso? Sì, mi hanno mandato il messaggio, mi stanno dicendo che è lì, però qua non ce n'è, sto frugando dappertutto. Io non le trovo, Maria Antonia, clinica chirurgica. Prova a chiederle in prestito, non lo so. Qua non ce n'è. Prova a chiedere in prestito, giù, manda l'ausiliaria da qualche parte. Trovate? Te la sto facendo. Le trovate? Sì, sì. Giusi, le hai trovate? Te la sto passando. Giusi? Giusi? Dimmi Maria Antonia. Io non riesco a collegarla a questa cosa. Ascolta, tanto adesso stanno entrando... Quello di prima. Cosa? Stanno entrando adesso i medici. Bene, aspetto. Maria Angela? Urlare, dimmi! Ascolta, ma se io entro qui la svestizione chi la fa? Perché lei non ne sa fare. Qui lo sai, non entrare, tanto io ho quasi finito. Se no fai uscire, ho l'altra. C'è Fabrizio, non ti preoccupare, ci sia Fabrizio e Lina se ho bisogno. Bene, allora sto qua, dai. No, non lo dobbiamo chiamare noi. Hanno già la chiave, mi sa. Ok. Dimmi, giù. Si stanno cambiando. Ma i medici stanno entrando? Vi ho chiamato per quello, sì. Stanno cambiando. Ok. Dimmi. Sappiamoci che manca tachipirina qui dentro, però se da portare domani o dopo. Ok. Stefano. Dimmi. Paziente numero 20, signora Contu. Le sto dando la tachipirina per la febbre. Lei è molto nauseata e vorrebbe anche qualcosa, ed è agitata, vorrebbe qualcosa per calmarsi anche, ed è nauseata. Ok, faccio sapere. Allora, mi ha detto, dottor Porchetto, di dargli la tachipirina e vedere un po' come si abbassa la temperatura, se si calma, e poi vediamo. Aspetta, se ripeti, gli ho già dato la tachipirina e l'ha presa. Sì, aspettiamo, che probabilmente è dovuta anche da quello. Ok? Ok. Una flebo, sul comodino della signora Secchi, avevi perso una flebo. È una R. Sì, una R, ed è del signor Scanu. Controllamelo se è del signor Scanu. Mi è sentito quando del signor Scanu, e lui che stavo dicendo che l'avevo lasciato ma non riuscivo a trovarlo. Aspetta, controllo. Scanu, giusto? Così? Così? Attacchiamo? Sì, sì, è sua. L'ho anche firmata. Mettigliela, era quella che ti dicevo. Va bene, giù. Maria Antonietta? Maria Antonietta? Maria Antonietta? Dimmi, Giusi. Se avete finito potete uscire, entrano loro dopo. Non lo so, allora usciamo adesso. Sì. Talkie talkie. Sì, l'abbiamo preso. Ok, va bene. Una volta che attaccate il tonatogramma non muovete più il letto, eh? Sì, ok. Allora, mi hanno detto di fargli una fisiologica con qualche goccia di NACL. Che goccia di? NACL, hai capito? Metto una fisiologica in vena, da 100. Dove sei adesso? Io. Maria Angela, dove ti trovi in questo momento? Dimmi. Angela, dove ti trovi in questo momento? Nel corridoio. Ascolti, allontani dalla camera della paziente un attimo. Ma non urlare, se parla un po' più piano. Ascolta, siccome la signora c'ha un trauma cranico, non gli si può dare nulla. Perciò una fisiologica con del NACL, scrivi qualche cosa, già hai capito? Dico a lei che c'ha antidolorifico dentro per calmarla, va bene. Quindi qualche rilassante, ok? Data. Se ricordami che bisogna portare anche dei flussori semplici qui dentro. Ok, lo segno. Ecco, mi vedi qua solo 1, 2, 3, AVR, AVL e AVS. Cioè le prime tre pericordiali e le periferiche, dici? Sì, esatto, però mi mancano V1, V2, V3, V4, V5, V6. Quindi hai solo le periferiche, va bene. Ah, ok. Dopo quindi le stacco il tubo e le metto direttamente un filtro in uscita. No, il tubo lo lasci, devi togliere soltanto il circuito chiuso di aspirazione e ovviamente il circuito del ventilatore. Al tubo tracheale in uscita gli metti un filtro. Sì, sì, ovvio, scusa, non il tubo, intendevo il circuito. Ok. Trasferimenti non, per non cambiare idea dopo. Allora, Giusy, mi senti? Senti, Giusy? Giusy? Ti sento, dimmi i trasferimenti. Adesso stiamo togliendo la signora al bis, la signora Manconi, e la dobbiamo mettere al 15, giusto? Poi al bis ci va invece Maninchetta. Al bis ci va Maninchetta e Scanu, giusto? Così? Poi dimmi Maria Antonia. Quindi al bis ci va Maninchetta e Scanu. E al invece signor Campus va al 19, giusto? Sì, giusto. Ok. Lo sai il numero del nuovo ragazzo del 5? L'ultimo ingresso. Donietta? Dimmi Giusy. Dimmi Giusy. Sai per caso il nome dell'ultimo paziente che è entrato? Sì, adesso chiedo, mi spero che sia Carbi. Aspetta un attimino. Giusy? Dimmi. Allora si chiama Carbini Alex e ha 99 di saturazione. Carbini? Ah, perché mi stava dicendo che ha un po', ce l'ha ancora? Ha un po' di capogiro, mi ha detto, da quando gli ho messo la maschera di Venturi. Giusy, mi hai sentito? Giusy? Sì, sì, comunque guarda, stanno entrando loro e al limite se lo vedono, dai. Ok. Ok, Mary. Come, scusa, Giusy? Sì, sì, lascialo così, poi loro stanno entrando e lo vedono. Bene, ok. Ok. Polo e Cucu. Poi Manconi va con Pala Maria Luisa. Bene. Che è Pala Maria Luisa? Però se sta Pala Maria Luisa. Giusto? Dimmi, Giusy. Che deve entrare questa 16, è donna. Sì, scusate, Manconi, dove va? Che l'ho tolta già dalla stanza. Al 15! Al 15 insieme a due uomini? Scusa, 15 e 16 perché sono uomini? Non è la stanza dove ci sono due letti e basta. Maria Antonia? Perché mi sto facendo un giro giù, perché qua veramente c'è un casino. Allora, giù, l'unica possibilità è che spostiamo il signor Ledda. Dimmi una cosa, 15 e 16 non sono solo due letti? 15, 16, 17, 18, cioè, sono le stanze grandi. 15, 16 sono le stanze grandi. Giusy, mi ascolti un attimo? Giusy? Sì. L'unica cosa è portare il signor Ledda al letto 15 e la signora Manconi con questa nuova che deve arrivare, se è donna, al posto di dove c'era Ledda. Fa la Maria Luisa e va al 16. Ma lei dice che non tanto ne uomini quello. Ho capito. Le Manichetta vanno al bis 2 e così si libera il 15 e il 16. E Manconi va al 15 e il 16 resta libero per questa nuova donna che entra. Hai capito? 4 letti, 13, 14, 15, 16. Polo Mario al 14, Cossu Massimo. 15 e 16, ho in un'unica stanza. È quello che stiamo dicendo da poco fa. Quindi qui, perché cavolo non l'unica possibilità è che l'11, cioè il signor Ledda, venga messo a letto 15. Quindi ci rimane libero, ci rimane libero una stanza a due letti. Ok, dodici, dove possiamo mettere la signora Manconi e poi c'è una nuova che sta arrivando. Gli altri non avevano considerato la stanza che era così, dai. Sento? Dimmi giù. Sento, Maria Antonia, fai come hai detto tu. Ok, ok. Aspiralo. Lo iperventilo? Sì, fai come al solito, aspirazione, tieniti bene il tubo quando lo aspiri. Ok. Il monitor lo vedi da lì? Il ventilatore, dici? Sì, sì, il ventilatore volevo dire, non il monitor. Sì, dai, già si vede. Ok, dai, facciamo 5 sigari. Allora, al 5 vai, ti dico come abbassare il limite della saturazione. Allora, clicco su SPO2. Esatto, ti dovrebbe apparire una schermata dove c'è il limite inferiore, metti 80. Ok? Ok, come faccio a trovare la schermata iniziale? Ci dovrebbe essere una casa da qualche parte. Guarda che in quella schermatina ci dovrebbe essere una X. Ok. Adesso puoi staccare il tanatogramma invece al signore. E il, l'ECG, mettete il nome, l'orario e lo mettete dentro una busta. La busta la chiudete e la mettete in svestizione. Ok, boh. Devi dire sì, sì, signor, sì, signora. Da vedere, c'è una... Sembra di no, mi sembra di no. Nella stanza 1, 2, 3, 4 non c'è niente da vedere. Butta un occhio magari alla 3A. Due di circa 200 sta tornando. Vai di nuovo. Allora dimmi di nuovo dal numero 3. La frequenza 100, saturazione 98. Poi numero 10, non riesco a rilevarla. Lo sfigmo, fermo un attimo. Lo sfigno non riesce a rilevarla la sua, non capisco il perché. Numero 13, 185 su 109. Le hai dato anche... Mi devi ripetere dal numero 3. Rodrigo, mi dai un secondo, te le riscrivo in grande e te le invio. Proviamo, il problema è che praticamente i pixel non li regge quando si ingrandisce la foto, però possiamo provare. Lo rinviamo subito. Ok. E va, com'era la procedura? Cioè, perché mi chiederanno informazioni i parenti quando li chiamo, perché questi sono Covid, non credo che glielo facciamo vedere. Allora, ascoltami, praticamente la figlia è un'infermiera, lavora in medicina d'urgenza, quindi bisogna chiamare lei e avvisare che è deceduto e gli chiedi se è crema oppure no, ok? Perfetto, in cartella ci sarà, c'è scritto il coso, l'agenzia, quindi si occupa l'agenzia, quindi non penso che, non lo so come stanno procedendo. Comunque la figlia è un'infermiera, hai capito? Adesso prova a chiamarla. Che ti passa una tua Maria Giovanna? Vittoria, ma dobbiamo chiamare Barbara? No, devi aspettare che te lo dice Filippo che decisione deve prendere, perché vogliamo capire se viene cremato o no, perché l'ECG ancora ha il pacemaker, quindi ha funzionalità. Ascolta una cosa, Vittorio, ma il Covid... Per forza, io sto proprio così. Insegnate la la pressione del nuovo ricovero. Lì ce l'ha. 56 e 84 di frequenza. La devi ripetere, Vito. 105 la massima, 56 la minima, 84 la frequenza. E ritmica? Perché questa è un po' più leggibile, ma comunque è un problema, appena si ingrandisce è un problema, stiamo un po' tirando ad indovinare i numeri. Allora te li dico, Rodrigo. Sì, va bene. Numero 3, 135 su 70. Perfetto. 5, 130 su 70. Sei? Sì, ci sono. Numero 13, 185-110 con frequenza di 75. Gli ho somministrato un Norvasc da 10 mg. Ok. Numero 17, 100 su 70 con frequenza di 116. Benissimo. Numero 17, gli HGT ho preso a 222. Il numero 14 a 199 e il numero 9, il nonnino, a 111. Gli ho fatto solo 4 unità di umalo. Perfetto, ho ricevuto tutto. Segnati anche questi che ho dato al numero 8, 9, 18, 20, 12 e 2. Ho dato una tachipirina per os. Ok. Mentre alla numero 6 ho fatto il Tarfalgan in vena, forse l'avranno già segnato, ma te lo dico come promemoria. Va bene. No, ma non devi andare tu, chiama la squadra giù, cosa fai tu? Porta la squadra questa cosa. Tanto che te la porta, che vadano a cercarcela, perché ci serve. Siamo per casa. Oh, mi è bruttissimo. Cioè, mi manca l'accendino e abbiamo fatto 13. Lo so, è brutto. Stanotte non sarai nei miei sogni, sappilo. Ci sarà Lucia. Guarda Pierfrancè, così già può bastare. Pier, mi senti? Pierfrancè? Raga, mi sentite? Pierfrancè, va. Mi ha detto che vuole far finire il gettito perché non riesce a bloccarlo. Portiamo la cardiolina e scendiamo. Cosa hai detto? Portiamo la cardiolina e scendiamo. Ma hai preso la varechina dalla svestizione? Sì, ma era quello dei due, era quello rosso, era, perché qua non ce n'è. C'era dentro nel magazzino. Vabbè, non succede nulla. Portalo fuori quel contenitore dopo allora. Vai tranquilla. Guarda, poi l'ho visto nella farmacia, nel vecchio magazzino. Sopra a destra come entri sopra uno scatolone. Aspetta che guardo. Se no te lo preparo, Aspetta che guardo. Stati a destra, un tavolino. Pronto? Sì, Giusy. Sì. Maria Antonia, ma non esci? Maria Antonietta? Maria Antonietta? Maria Antonietta? Che cosa? L'orario che va, come sono entrata, insomma, l'ho visto. Più o meno, diciamo, adesso chiedo bene, perché non è che l'ho guardato proprio bene, ma diciamo che adesso sono, adesso guardo, dai. Ma più o meno saranno state le 9:30 a Fedei. L'importante appuntarsi è... Ok, poi così ci cerchiamo anche i moduli per fare gli stat. Giusy, rispondi. Sì, Maria Antonia. Allora c'è un cambio di programma, Paola, quindi signor Cossu è dimesso e invece viene trasferito signor Cenerelli. Va bene, prepariamo la roba di Cenerelli, questa è già pronta la roba. Ok. Maria Antonia, noi facciamo questo e stiamo uscendo, perché poi dobbiamo rientrare per la cena e per risistemarli, va bene? Se riuscite a preparare la roba di Cenerelli, perché stanno venendo a prenderlo. Sì, ti ho detto, facciamo questo e poi stiamo uscendo, va bene? Va bene. Giusy? Dimmi Maria Antonia. Maria Antonia? Antonietta? Giusy, mi senti? Ti sento. Allora, le albumine sono in quel, mi ha detto, ripostiglio dove c'è anche l'ecografo portatile. C'è il? Dove c'è l'ecografo portatile. Quindi ti lascio un foglio anche. Allora, Maria Antonietta. Maria Antonietta. Dimmi giù. Allora, va bene, non ho seguito quello che hai detto. È stata approvata a secchi a 58 l'azione. A te lei dice di star bene. Giù scusi, metti il saturimetro al dito. Metti il saturimetro al dito. Metti quello piccolo, il saturimetro al dito. Giù, lasciaglielo un po', perché all'inizio segna sempre 97 quel saturimetro. Sì, lo so. Allora, Maria Antonia? Quindi Giusi? Stattile, invece, con l'altro è sempre 60-59. Giusi, ma quale valore stai guardando? Guarda che ce n'è uno sulla sinistra e uno sulla destra di valore. SO2. Boh, comunque con quella dita è 99. Che è Giusi? Giusi, tutto a posto? Sì, segna sempre 99. Nel monitor? Diglielo a loro, sergente, SPO2, 58-57, segna sempre questo valore. Ascolta, Giusi, guarda, sono due valori. Un vicino c'è 100, dove c'è P, 5.7, e là... Sinistra, una destra. Sinistra, c'è scritto SPO2 sotto il 57. 100. Appunto, è quella la saturazione giù. Ma com'è possibile però che sia scritta la saturazione dall'altra parte? Di giù, è quella la saturazione. Ma entri, lo vedi? Che c'è scritto SPO2 e sopra c'è scritto 57. Aspetta che faccio il stick. Poi esco, mi guardo un po' le flebbo. Allora, faglielo lo stesso lo stick. Che numero è? Ricordamelo. Il costo dimesso, ma non si sa quando. Dammi il numero. Questo è quello che doveva essere trasferito, il numero 14. Quello è costo però.